Allora subito la parola al secondo relatore, che è il professor Diego Qualioni, professore della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, specialista per la storia del pensiero giuridico moderno, questo è anche il titolo del suo insegnamento, ormai celebre per una serie rispettabile di pubblicazioni, ancora prima della sua venuta a Trento. Leggo tra gli studi principali Politica e diritto nel 300 italiano, Genesi e diffusione della letteratura giuridica politica in età umanistica, Roma Ateneo 1984, Dottrine giuridiche e dottrine politiche tra Medioevo e età moderna, Rimini 1989, ha curato ancora l'edizione della Apologia Iudeorum e della Invectiva contra Platinam di Battista dei Giudici, Roma 1987, e poi ancora il secondo volume della République di Jean Bodin. Devo aggiungere a tutto questo l'apprezzamento particolare per il professor Qualioni, che intanto è tra i docenti dell'Università di Trento che ha trovato degno e utile e doveroso forse lo stanziarsi tra noi e rimanere stabilmente da 2 anni, vero, nella nostra sede universitaria, di una presenza che non è solo materiale, ma me ne sono accorto nella preparazione di questo convegno, estremamente attenta, estremamente intelligente e penetrante, estremamente generosa anche nel collegare con altre personalità che con questo mondo di cose possono venire collegate. Io lo sento veramente come qualche cosa di molto bello, perché è in questo modo che la riflessione, la ricerca anche faticosa sul posto viene fecondata ed aiutata a crescere. Comunque a lui la parola e spero che nel corso della giornata, anche negli altri interventi o nella discussione, egli possa aiutarci in modo molto fruttuoso. Grazie professore. Ringrazio, spero si senta. La documentazione sul caso degli ebrei di Trento è molto ampia, come abbiamo appena sentito dalla bella relazione del padre Ecker, e comprende non solo i verbali dei processi, ma anche un'ampia corrispondenza epistolare del Vescovo di Trento, numerosi scritti polemici, occasionati principalmente dalla legazione trentina e roveretana del commissario apostolico Battista dei Giudici, e non ultima per importanza anche la letteratura giuridica prodotta in occasione della revisione della causa presso la Commissione Sistina. Sono tutte fonti egualmente indispensabili per ricostruire in ogni suo elemento, sia di dottrina e di prassi giudiziaria, sia di vita politica e religiosa, una vicenda che è di sicura importanza nella storia dell'antigiudaismo. Io credo qui di potermi, di poter soprattutto risparmiare parte quello che avrei forse dovuto dire ad illustrazione di temi generali. Mi libera da questo obbligo sia la relazione che mi ha preceduto, sia la pubblicazione abbastanza recente di alcune di queste fonti nella collana di Roma nel Rinascimento, diretta da Massimo Miglio, sia l'imminente pubblicazione del volume con gli atti dei processi nella serie del Dipartimento di Scienze Giuridiche della nostra Università. Rinvio a quelle pagine una volta per tutte per limitare il mio intervento a poche fonti di particolare significato per il nostro tema. La letteratura giuridica, che è di tipo ovviamente controversistico, occasionata dai processi trentini, è una chiave di lettura essenziale dei verbali del procedimento, ai quali rimanda costantemente, da una parte per difenderne la autenticità, la validità, l'aderenza alla dottrina e alla prassi giudiziaria del tempo, e dall'altra, naturalmente per denunciarne la falsità, la nullità, i vizi procedurali. Il Vescovo di Trento, scrivendo ai cardinali della Commissione Sistina, aveva affermato che si era proceduto correttamente, sulla base di molti e chiarissimi indizi, evidentissimis plurimis indicis, e secondo le norme civili e canoniche e gli statuti e consuetudini della città di Trento, legando così esplicitamente, voglio sottolinearlo, il processo romano canonico e la statutaria trentina in materia penale, in materia criminale. Il commissario apostolico, per contro, riteneva che gli ebrei fossero stati forzati a confessare sotto torture smisurate un crimine mai commesso, vi tormentorum immoderatorum ad confitendum scelus non commissum, quindi rapidamente tolti di mezzo, morte turpissima perché non potessero ritrattare e senza che fosse permesso ad alcuno di dare loro una voce legale, di parlare cioè in loro difesa, pro eis loqui. E se il commissario giungeva ad accusare di falso il notaio maleficiorum Giovanni da Fondo, il vescovo Hinderbach, in un modo che ha dell'lapsus probabilmente e che ci pone crudamente dinanzi alla confusione dei ruoli del giudice e dell'accusatore nel meccanismo processuale della inquisizio, confessava di aver sempre procurato di togliere ogni arma di difesa dalle mani degli avversari, gladium defensionis in manibus adversariorum. Ciò non significa però che a Trento si fosse indifferenti alle forme del procedimento e alle dottrine processualistiche. Come si potrebbe. La tesi tridentina della nullità degli atti del commissario apostolico, accolta poi dalla Commissione Sistina sulla base della consultatio del canonista Giovan Francesco Bavini, si fonda costantemente sul ricorso alla teorica doctorum, alla dottrina giuridica. Sarebbe strano piuttosto se così non fosse, vista la formazione giuridica del Hinderbach e la presenza nella sua cerchia di familiari, di giuristi di statura notevole. Il processo di Trento è del resto per molti versi, come abbiamo sentito anche poc'anzi, al di là della atipicità del crimine imputato agli ebrei, ma bisogna pensare che il processo si proponeva appunto di tipicizzare il crimine dell'omicidio rituale, è, dicevo, un tipico procedimento inquisitorio d'ufficio, cioè senza attendere accusa o denunzia in scriptis. Inquisizione generale speciale, istruita contro gli infamati e condotta arbitrio iudicis, ma sempre in iscritto, perché regola fondamentale era che indizi, testimonianze e voce pubblica fossero redatti in scriptis. Senza fama precedente non sarebbe stato neppure lecito procedere all'inquisizione, meno che mai all'incarcerazione dei rei. Quando la voce pubblica indicava il colpevole, il giudice poteva tralasciare l'inquisizione generale e iniziare subito la speciale, contra aliquam speciale persona. Doveva però constare de maleficio, cioè accertare il fatto delittuoso, diremmo oggi. Si inviavano gli ufficiali ad videndum hominem mortum, o vulnera, eccetera. Al momento della formalizzazione, poi, della inquisizio, gli inquisiti ricevevano copia dei capitula ed erano invitati, entro un breve termine, che a Trento era di 3 giorni, a produrre eventuali prove, eccezioni, repliche a difesa. Nel caso di un inquisito di male fame, tuttavia il giudice poteva non rendere pubblica la inquisizio e non fornire la copia inquisitionis. L'inquisizione speciale era, e nel nostro caso non fu diversamente, accompagnata generalmente da un mandatum de capiendo. Arbitrio dunque e segretezza. E quanto alle prove, come è noto nel modello che sto descrivendo del procedimento inquisitorio comunemente assunto nella prassi giudiziaria del tardo medioevo, la loro valutazione non era libera, cioè secondo la coscienza del giudice. Il giudice in qualche modo doveva credere alle prove legali che egli stesso assumeva nel procedimento scritto in base ad un calcolo variamente stabilito dalla dottrina ma che invariabilmente aveva nella confessione il suo maggior grado di probabilità, rendendo così generalizzato nella logica stessa del processo il ricorso alla tortura. la stessa valutazione delle prove testimoniali era in potestà degli iudicis, ma secondo una rigida casistica elaborata dalla dottrina. Tutto questo implica un grado di formalizzazione dei verbali del procedimento molto alto, sia di quelli relativi ai testi e ai periti, così come di quelli relativi agli interrogatori degli inquisiti. Nel nostro caso è facile constatare che la fase generale dell'inquisizione, richiamata poc'anzi nella relazione del padre Eckert, cioè la fase della raccolta degli indizi, delle testimonianze, delle perizie, ebbe una importanza determinante nella formazione della verità processuale. L'idea che Simone non è morto annegato per una caduta accidentale, ma è stato rapito, sottoposto a tormenti, secondo un rituale e quindi ucciso in odio alla fede cristiana, è formata già perfettamente in quella prima fase. Gli interrogatori degli inquisiti in questo senso non hanno altro scopo che quello di portare a una piena e concorde confessione di colpevolezza, cioè di adesione ad una verità che è già nella mente del giudice, dell'inquisitore. Le stesse testimonianze rese in quella fase si caratterizzano come testimonianze de credulitate, questo è il termine in uso nella dottrina, oppure de auditu alieno o de auditu vocis, oppure rese tramite il verbo videtur, sembra, mi sembra, appare. E dunque tutte, secondo la miglior dottrina, prive di valore probatorio. Nella tradizione di diritto comune ha valore probatorio, voglio ricordare, solo la testimonianza che si fonda sulla percezione di un fatto, resa dal teste in modo circostanziato attraverso l'espressione della causa scientiae e senza ammettere alcuna inferenza. Quelle testimonianze hanno tutt'al più il valore di indizi, ciò che nella fase generale dell'inquisizione può però risultare sufficiente, perché ha lo scopo di permettere agli inquirenti di emettere appunto un mandatum de capiendo nei confronti dei rei e di procedere ulteriormente contro di loro. La prova però, come abbiamo sentito, mancava e poteva ricavarsi solo dalla confessione, la quale fu ricercata, come ormai sappiamo, e ottenuta attraverso mezzi che oggi ripugnano alla nostra coscienza giuridica, ma che già in quella circostanza erano denunciati dai legali degli ebrei e dallo stesso commissario apostolico. L'uso di domande suggestive, cioè contenenti già la risposta che si voleva avere, e di astuzie varie e soprattutto di tormenti fuori di misura. I verbali registrano a tal proposito la drammatica domanda di un inquisito al limite della sua resistenza. Quid debeo dicere? Che cosa devo dire? Ecco, non a caso fu la procedura in uso a Trento il principale oggetto della controversia legale, della quale restano non poche testimonianze. Della consultatio del Pavini si è già detto, se mi è concessa l'ineleganza di una autocitazione, ne ho scritto io stesso per metterne in rilievo le novità dottrinali nella polemica antigiudaica del tardo XV secolo, in un articoletto apparso su Quaderni Storici e ora anche negli atti del penultimo congresso dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. Qui varrà forse la pena di aggiungere qualche particolare inedito. Come è noto per gli studi di Anna Modigliani, il testo del Pavini fu stampato nel 1478, a conclusione cioè della vicenda giudiziaria, nella tipografia romana Apud Sanctum Marcum, la tipografia che fu al centro dell'attività di Vitus Pueker e la maggiore produttrice di incunaboli giuridici a Roma negli anni 70-80 del 400. L'incunabolo del Pavini, ampio, di 14 carte in folio per 56 colonne, si trova spesso rilegato insieme ai consilia di un grande giurista medievale, Oldrado da Ponte. Anche la filigrana è la stessa e si è dunque supposto a ragione che il giurista patavino abbia voluto dare risonanza al suo parere legale sfruttando i consiglia di Oldrado come veicolo di diffusione di un libello di certa attualità. Quel che ora emerge dalla sistemazione del materiale conservato nella capsa 69 della sezione latina dell'archivio principesco vescovile è la presenza dell'autografo del Pavini, che invano si cercherebbe a Roma, postillato dal Hinderbach. e dello stesso incunabolo del Pavini, sui margini del quale il vescovo Hinderbach continuò instancabilmente ad appuntare addenda e corrigenda. Lettore del Decretum a Padova alla fine degli anni 40, poi uditore di rota con Pio II e i suoi successori, il Pavini era in rapporto stretto con Johannes Hinderbach, come attesta anche la corrispondenza tra il vescovo e i suoi oratori Approvino e Rottaler. Giusto l'Approvino, in una lettera da Roma, in data del 1 luglio 1478, comunica al Hinderbach di aver speso 30 ducati per finanziare la stampa di oltre 300 copie della Consultatio da distribuirsi a tutti i prelati e agli oratori presso la Santa Sede, ut veritas toti mundo in notescat. Questo ritrovamento si deve alla dottoressa Esposito, che credo stasera ci darà qualche altro particolare su questa stampa trentina a Roma. Lo scritto ebbe una parte notevole nella decisione della causa romana, resa nota poi con la bolla papale 10 giorni prima, il 20 giugno, convincendo la Commissione Sistina della ineccepibilità del processo celebrato dal Podestà di Trento e della nullità degli atti del commissario apostolico. I fundamenta esposti dal Pavini sottolineano costantemente il rispetto dello stilus, della forma iuris. Il giudice di Trento, cioè, ha proceduto, secondo il Pavini, ex mero ipsius officio auctoritate et bailia, togliendo così ogni necessità di denunzia formale e anche di consegna dei capi di imputazione ai rei, come del resto lo autorizzava a fare l'esistenza di una fama pubblica. Anzi, qui il Pavini taglia corto e afferma che tutto ciò non è che normalissima prassi, anc practicam servat totus mundus. E quando anche si possa ravvisare un qualche vizio formale nell'operato del giudice, il Pavini avverte che la scientia principis interviene a sanare ogni difetto procedurale e perfino il defectus indiciorum, l'insufficienza di indizi. Il giudice processit cum conscientia principis, videlicet episcopi et domini tridentini, et ducis austrie, ibidem jurisdictionem pretendentis. Infatti questa scientia principis supplet defectum quiuslibet solemnitatis. L'argomento era probabilmente tratto dalla dottrina del rescritto contra ius, che vale se emanato ex certa scientia, con la piena consapevolezza del principe legislatore. Ma la dottrina a questo proposito affermava che, quando anche questo sia vero, è escluso il processus iudici, che la dottrina tende ad escludere dalle competenze del legislatore umano e, per così dire, a porre in una sfera di logica giuridica nella quale appunto il legislatore non può entrare. Nel Consilium del Pavini si allegavano ancora la qualitas criminis atrocissimi, la taciturnitas dei condannati che non avevano prodotto eccezioni e opposizioni, lo stesso dovere d'ufficio imposto a norma di statuto e ancora l'osservanza della comune procedura, stilum omnium iudicum, che consente al giudice di applicare la tortura anche in die non iuridica, eccetera. Naturalmente le citazioni delle fonti normative e dottrinali sono numerosissime, vanno dai maggiori criminalisti del tardo medioevo, Angelo Gambiglioni, Antonio da Budrio, l'arcidiacono, Giovanni da Imola, Bartolo, Baldo, Innocenzo IV, Cino e tanti altri, e naturalmente anche la glossa civilistica e canonistica. L'interesse di queste argomentazioni di fronte alle obiezioni mosse dal commissario apostolico è indubitabile. Anche per quel tanto di istanza, vorrei dire, di positivizzazione della procedura che esse contengono, in quel richiamo appunto al potere del principe di derogare a quell'ordo iudiciorum che la dottrina aveva sacralizzato, come dicevo prima. Credo però che un interesse maggiore dal punto di vista dello studio di una cultura criminalistica locale sia dato da altri scritti redatti a difesa del giudice trentino. Nell'archivio di Stato di Trento si conservano 3 esemplari di una memoria difensiva firmata da un giurista trentino, Giovanni De Giglis o De Lilis, è intitolata Allegationes per modum conclusionum in causa tridentina. Anche in questo testo la massima attenzione è rivolta a scusare il podestà da vizi e difetti procedurali e a dimostrare innanzitutto la sua competenza a giudicare nella causa. In base alla Lex Iudei del Codice Giustinianeo, nel titolo De Iudeis, Codice 1.12.7, il De Giglis si intendeva dimostrare che il podestà poteva e doveva giudicare gli ebrei trentini, tanquam inter sue jurisdictionis subditos, e che procedendo ex mero officio, d'ufficio, ad suum arbitrium, aveva il potere di sottoporre a tortura gli inquisiti. Si contesta poi che le confessioni così ottenute possano dirsi fatte vi tormentorum o ottenute per suggestione, e si svolge infine, ciò che per noi è, credo, di certa importanza, una considerazione che riguarda da vicino le norme del diritto statutario in materia criminale. La confirmatio, la conferma delle tesi trentine, cioè, è riposta in ultima analisi nell'arbitrio pieno concesso al podestà dallo Statuto di Trento, per il quale si dà liberum arbitrium al podestà di procedere ad cognitionem veritatis nelle cause criminali, nulla solennitate iuris servata, cioè senza rispetto alcuno delle forme della procedura di diritto comune. Da ciò consegue che naturalmente non si può opporre alcun difetto al processo celebrato dal podestà a causa della inosservanza del comune ordo iudiciorum. Potest statutum tollere uius modi solennitates, et potest iudex agere ad libitum arbitrii sui, etiam non servatis solennitatibus iuris comunis. Qui siamo anche oltre la linea del Pavini. Il richiamo alla legislazione statutaria trentina, alle norme poste nelle rubriche del secondo libro degli statuti alessandrini, in vigore dal 1425, è una costante della difesa attuata dai giuristi del principe vescovo Hinderbach. Il miglior esempio di tale atteggiamento è dato da un consilium prolisso e farraginoso, non privo però di una sua importanza, in quanto rivelatore di motivi altrimenti a noi ignoti. Il suo autore, per quanto non sia il più celebre tra i giuristi dell'entourage vescovile, è certamente uomo di letture vaste, in grado di padroneggiare largamente la dottrina e le fonti dell'uno e dell'altro giure. Si tratta di quel Giovanni Antonio de Vaschetis, come detto negli atti dei processi, o Guaschetta, come egli si firma negli autografi conservati nell'archivio di Stato di Trento, e che Bonelli ricorda consul negli anni 1467, 1473 e 1477. Nei processi è presente nei momenti di maggior solennità, cioè alla lettura delle sentenze di condanna, tutte, e ad alcune ratifiche delle confessioni, sempre in compagnia degli esponenti della nobiltà feudale e di una ristretta cerchia di giureconsulti: Antonio De Fatis da Terlago, Calepino De Calepini, Antonio Mirana e Odorico da Brez. Egli risulta anzi a fianco del vescovo insieme a Calepino e al De Fatis al momento della denunzia della scomparsa di Simone e assume nel processo una parte attiva quando gli viene affidata la difesa del principale imputato, l'ebreo Samuele. Ma sappiamo dai verbali che in realtà egli non promosse alcun atto a difesa dell'inquisito. Nullam defensionem fecit dictus Samuel inquisitus, nec aliquis alius pro eo. Sua, del Guaschetta, è ancora la lettera da Rovereto, in data del 7 novembre 1475, con la quale comunica all'Hinderbach l'esito di un colloquio burrascoso avuto con il commissario apostolico, durante il quale il De Giudici aveva mostrato il breve di Sisto IV in proibizione del culto di Simone e aveva ribadito la nullità del processo, et quod iudei contra ius mortui sunt et causa abendi eorum bona. Il Guaschetta aveva risposto quod processus erat validissimus et quod mortui erant justissime, opinione che egli aveva del resto già espresso in un consilium, anch'esso conservatosi autografo, dato per rigettare la prima citazione del podestà de Salis davanti al tribunale del commissario. Questo è quasi l'annuncio della successiva memoria difensiva del Guaschetta, datata ai 25 di novembre del 1477, è questa. È vertente essenzialmente sugli aspetti della competenza del giudice di Trento, della confisca dei beni degli ebrei e dello stesso merum et mixtum imperium del Vescovo di Trento, cioè la sovranità, come si dirà più avanti, a riprova delle implicazioni fortemente politiche dell'esercizio della giustizia penale. L'opera è ridondante di citazioni della dottrina e anche per questo di lettura non facile a chi non sappia muoversi tra i tecnicismi della dottrina, e si apre con un richiamo alle fonti normative, civilistiche e canonistiche relative agli ebrei, e in particolare con una lunga citazione letterale della decretale Etsi Iudeos di Innocenzo III, è il capitolo 13 del Liber Extra, libro 5, titolo 6, dove è dichiarato lo stato di servitus perpetua degli ebrei, nocivi ai cristiani come mus impera, serpens in gremio, ignis in sinu. Vi si spiega poi di voler aggiungere le proprie argomentazioni a quelle già addotte in Curia Romana, a rafforzamento pro corroborazione iurium e pro dilucidiori informazione, in quanto, si badi, l'autore si dichiara melius instructus de statutis legibus et consuetudinibus ac stilo Curie Tridentine. Non può non colpire questo richiamo, che più oltre è ancora meglio specificato, ad uno stilus Curie Tridentine, ad una prassi giudiziaria consolidata vigente a Trento in deroga al comune Ordo Iudiciorum. Il Guaschetta ricorda che la rubrica de elezione et iuramento domini potestatis posta negli statuti di Trento, la rubrica 2 del libro primo, obbliga il podestà alla inquisizione diligente nei casi di maleficio in genere e in particolare di falso, omicidio e furto, e che la rubrica de omicidio, libro secondo, rubrica 61, prevede la pena di morte per decapitazione. Si chiede poi se gli ebrei trentini fossero soggetti unicamente alle norme penali di diritto comune o soggiacessero alle norme statutarie e dunque anche alla giustizia criminale trentina. La risposta del Guaschetta è ovviamente lineare: indubitanter dicendum est quod sic. Gli ebrei possono, secondo il diritto comune, convenire in giudizio. Né il Guaschetta dubita che gli ebrei siano compresi tra i soggetti alle norme del diritto statutario. Col nome di Trentini si indicano anche gli ebrei abitanti a Trento. Dunque, lo statuto comprendente i Trentini comprende anche gli ebrei tridenti habitantes. Dunque, il podestà poté procedere contro di loro et condemnare de omicidio commisso in persona beati Simonis. Gli ebrei erano dunque per il Guaschetta perseguibili e punibili, e anche con pena superiore a quella prevista dagli statuti per l'omicidio, proprio in ragione della particolare atrocità del crimine e della stessa qualitas personarum, intesa qui come una aggravante. In questo passaggio, l'accentuazione delle particolarità del diritto locale e della locale prassi giudiziaria raggiunge dei toni che sono inconsueti, nel tentativo di porre Trento e la diocesi di Trento in un'area di non recezione del diritto romano. Propter stilum Curie Tridentine, qui servatur ab antiquo tridenti, et in aliis jurisdictionibus episcopatus tridenti et in Alemania, impuniendis similibus malefactoribus, pro similibus atrocibus delictis. Allo stesso modo lo Statuto di Trento, alla rubrica De Condemnationibus, libro secondo, rubrica 57, vuole che le sentenze pronunziate pubblicamente in arengo siano inappellabili. Ciò che toglie ogni dubbio, secondo il nostro giurista, super affirmata nullitate processus iudeorum. Egli aggiunge ancora che il carattere arbitrario della pena è ampiamente giustificato dalla rubrica De iis qui conspirationem seu coniurationem fecerint, libro secondo, rubrica 2, dove gli statuti alessandrini danno al giusdicente il libero arbitrio di aumentare o diminuire le pene capitali pro suo libito voluntatis, a piacere. Considerato che tale arbitrio è concesso de consuetudine et de stilo Curie Tridenti e che gli ebrei sono colpevoli di lesa maestà divina. In conseguenza di ciò, infine, si giustifica anche la confisca dei beni dei condannati. Il podestà poteva procedere in questo modo a causa della particolare atrocità e gravità del crimine e punire gli ebrei alla pena della confisca. Lasciamo per un momento il Guaschetta, al quale torneremo subito per concludere. Ho quasi finito. Fra le testimonianze della controversia legale, scrupolosamente conservate dal Hinderbach, ce n'è una di parte avversa, notevolissima al di là dell'occasione che la originò. Si tratta di un parere dichiaratamente anonimo, quasi del tutto spoglio dalle consuete allegazioni di norme e di dottrina con le quali troppo spesso, come sappiamo, si sopperiva con il peso brutto della dottrina alle insufficienze del ragionamento. Il suo autore, certamente uomo vicino al commissario apostolico, del quale richiama alcuni giudizi, forse uno dei dottore Spatavini che Linderbach nomina in una lettera al poeta Raffaele Zovenzoni, pone due soli quesiti. Primo, se fu giusta la procedura ad capturam et torturam iudeorum. Secondo, ammesso e non concesso di sì, utrum ex confessionibus per eos factis potuerint condennari. L'anonimo muove dall'argomento della liceità della procedura arbitraria de scientia principis, sostenuta nella consultatio del Pavini, l'abbiamo visto prima, scientia principis supplet defectum solennitatis, dichiarando il contrario vero, di diritto, vale a dire che gli ebrei di Trento furono impie, empiamente, si badi, perché contro appunto un ordine del giudizio che è sacro, e iniuste capti atque torti, perché contro di essi non esisteva alcuna diffamatio iuridica, né indizi sufficienti all'incarcerazione e alla tortura, nonché alla condanna. Affermata dunque l'inconsistenza degli indizi, privi in ogni caso di quella evidenza che sola può giustificare il ricorso alla tortura, l'anonimo indica nella negazione dei diritti di difesa l'altro vizio capitale del processo. Con un ragionamento stringente, le stesse ratifiche delle confessioni sono dichiarate nulle presuntivamente. Sebbene l'inquisito o l'accusato perseveri nella confessione fatta sotto tortura, tuttavia non può essere condannato per quella sola confessione, se non vi sono indizi legali validi. Infatti si deve presumere, dice il nostro anonimo, che così come il giudice ha illecitamente sottoposto a tormenti l'inquisito, così anche illecitamente lo abbia fatto perseverare nella confessione per timore dei tormenti passati e futuri. Metu tormentorum, futurorum et preteritorum. A queste considerazioni l'anonimo aggiunge ancora l'argomento della radicale inverosimiglianza delle confessioni. Abbiamo sentito poco fa che giudice di Trento giunse a credere l'incredibile, soprattutto là dove il movente dell'omicidio è indicato nel consumo rituale del sangue cristiano. Non è da uomini sani di mente e zelatori della giustizia, scrive nel suo latino l'anonimo, ritenere verosimile che gli ebrei tormentino e uccidano bambini cristiani per porne il sangue negli azimi. Essi che, come è risaputo, osservano ad unguem la legge mosaica che vieta l'uso del sangue. Allo stesso modo, e con un più forte richiamo alla pura ragione, qua razione, quibus auctoritatibus vel experimentis probari potest, l'anonimo mostra il ridicolo e l'assurdo della leggenda dell'omicidio rituale attraverso la contraddittorietà stessa di alcune asserzioni contenute nelle confessioni e conclude che nessuna ragione può essere data delle conclusioni del giudice trentino, se non che ciò che ora si predica di Simone è pura invenzione, pieno di menzogne, di favole, e creata ad arte ad tantum scelus obtegendum. Si badi, sicut alias factum est in partibus Alemanie. Parole forti, invettiva lucida che dovette colpire nel segno. Il Hinderbach fece circolare questo consiglio. modificando però la invocatio iniziale consueta nei pareri legali, in Christi nomine, il giurista comincia così ad esporre le sue deduzioni. Il Hinderbach vi inserì di sua mano un anti, in modo tale che si leggesse in Antichristi nomine. L'archivio di Stato di Trento conserva il testo originario con l'aggiunta di mano del Hinderbach, anti, e la copia dove Antichristi si legge per esteso. Torniamo, per finire, al Guaschetta. L'archivio di Stato ci restituisce di suo anche una letterina, è questa, ecco. Un foglietto volante, scritto in tutta fretta e indirizzato al Hinderbach medesimo. Il Guaschetta si scusa con il vescovo di non poterlo accompagnare nella sua cavalcata a Bolzano. Reverendissime Pater, intelligo, reverendissima dominazione in vestram, crastina die ad Bolzanum fore equitaturam. Si scusa perché ha male ad una gamba. Promette però a riparazione di occupare bene il suo tempo e chiede a Linderbach di avere in presto una preziosa operetta. Obsecro atque supplico, ut mi accomodare dignetur, antequam recedat, ultimas allegationes iudeorum, le ultime allegazioni a difesa degli ebrei, incipientes, che cominciano con le parole, in Antichristi nomine. E vi prego di mandarmele per mezzo di mio figlio, l'attore della presente, ut opus ceptum perficere valeam, così che io possa terminare l'opera che ho iniziato. Il consiglio. Et in adventum iusdem reverende, reverendissime dominazioni vestre, e quando la vostra reverendissima signoria sarà tornata, illas incontinenti restitua. Glielo restituirò immantinente. E si firmava servitor Johannes Antonio. Ecco l'origine del consilium del Guaschetta. Il Guaschetta non aveva trovato parole per parlare in difesa di Samuele e meglio di chiunque altro dunque sapeva a che cosa si dovesse la taciturnitas dei condannati, ma era diventato loquace davanti all'appello dell'anonimo, a quella che possiamo chiamare la forza della ragione, senza timore di fare della facile retorica. Il suo parere legale, il suo consilium, che al di là della circostanza si caratterizza per una sorta di precoce, seppur modesto, conato di assolutismo giuridico, uso il termine senza timore di essere frainteso, riferendomi a quella affermazione di territorialità, se non di statualità, che è parola troppo forte, della procedura. Il suo consilium avrà conseguito allora l'esito desiderato, però io credo che ai nostri occhi quel consilium stia davanti ad una condanna senza appello, che è ancora quella dell'anonimo, non enim apud homines sane mentis, et qui solo zelo justitiae move antur, est verisimile quod iudei pueros christianos variis tormentis occidant, ut eorum sanguine utant. Veramente grati a professor Quaglione di questa esposizione brillante che ci rende tutti consapevoli della complessità del problema. Non credo sia possibile ragionare sul caso senza un interesse alle particolarità giuridiche della faccenda. Questo era stato già il filo conduttore di Giuseppe Menestrina, che 90 anni fa aveva preso per mano la cosa, proprio partendo da un fronte di storia del diritto. Ma per i più di noi certamente è arduo infilarsi nella lettura e soprattutto nella valutazione, nell'esatta comprensione di questi testi così insomma ermetici, così particolari, vero, da richiedere una competenza speciale. Io sono molto contento e grato di questo contributo. Vi dico la verità che mi sento anche molto aiutato a veramente a superare una certa mentalità sbrigativa che è stata ed è tuttora troppo diffusa nella valutazione del caso, per cui sembra che tutto sia stato arbitrario, quando in realtà noi ci troviamo di fronte a un processo raffinato che è sotto gli occhi critici di tutto il mondo ecclesiastico e civile di allora, che è continuamente sotto critica e quindi sa di dover resistere a una simile critica, no? E dall'altro anche l'idea che qui sia tutto e solo il vescovo, quando insomma c'è tutto un apparato, ci sono regole del gioco, c'è tutto un mondo che ha la sua complessità e le sue norme e anche le sue molte responsabilità, non solo una, non riducibili ad una sola, no? Con questo naturalmente non mi sento certo di dar giudizi conclusivi per niente, ma ecco, mi consolo che mi par di capire siamo sulla via buona e la notizia che abbiamo sentito che insomma si sta curando una edizione critica degli atti del processo trentino certamente ci mette davanti alla promessa di passi ben più consistenti in questa direzione. Grazie ancora.